24 mattino. L'Italia si desta. E il prete è pronto già. Leggiamo misura. Che il padre parla. Ce l'ho detto, padre de boom. Io già mo prega. Con questa canzone di Enzo Iannacci, buongiorno da Gianfranco Fabi, buongiorno per qualche giorno qui al posto di Alessandro Milan, a cui auguro buone vacanze. È un tributo a Enzo Iannacci, lo abbiamo salutato qualche giorno fa, un grande cantante, una grande personalità, un grande personaggio capace di interpretare i sensi della gente, capace di interpretare i sentimenti, i valori, capace di interpretare anche un certo modo di vivere questa nostra Milano. Anche oggi piove, anche oggi manca qualche minuto all'alba in questa giornata un po' triste, un po' piena di polemiche. Le vedremo tra poco, ma con queste note di Iannacci ci aiutano forse a comprendere una vita fatta di semplicità, una vita fatta soprattutto senza volgarità, molto, molto fraterna, molto capace di interpretare le cose appunto con il rispetto delle persone. Sentiamone ancora qualche nota di Enzo Iannacci. Al paese mi sottorna disertore mangia ma e su un treno carega un'altra volta sono scappa in montagna sono andato coi ribelli mancia fa. E allora onore a Iannacci, ne sentiremo ancora qualche nota tra poco. Un ricco programma questa mattina. Buongiorno bimbo alieno. Buongiorno e complimenti per l'apertura della trasmissione. Grazie mille, ma bimbo alieno, un fedele ascoltatore, ci ha annunciato con un suo tweet poco fa la sua presenza, parleremo tra poco con lui, tra poco avremo anche Armando Massarenti, responsabile del supplemento domenicale del Sole 24 Ore, alle 8:15 parleremo di Corea, di queste tempeste di guerra con Vittorio Emanuele Parsi e alle 8:30 sarà nostro ospite Roberto Saviano, autore del libro 000, edito da Feltrinelli, ci parlerà appunto di questo nuovo saggio, romanzo, inchiesta, una grande storia su una realtà drammatica del nostro tempo, quello del mondo della cocaina. E allora entriamo un po' sui temi di oggi, temi che sono ovviamente sui giornali di oggi quelli politici, un po' di polemica provocata anche da Radio 24 con questo scherzo fatto a Valerio Onida con le sue dichiarazioni, un po' ingenue, come le ha dichiarate lui, sicuramente ingenue sui saggi, temi economici, le dichiarazioni di Draghi sulla ripresa, temi appunto anche di questo mondo un po' complesso verso cui dobbiamo cercare di trovare un filo, un bandolo della matassa, un filo d'Arianna per uscire dal labirinto. Allora, bimbo alieno, ieri c'è stata dal profilo economico la dichiarazione di Draghi, più rischi sulla ripresa. C'è stata anche una dichiarazione del nuovo presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, che tra le cose che ha detto via Equitalia, daremo più soldi alle imprese e così via, ha detto studieremo il modo di fare una moneta lombarda. Allora, bimbo alieno, da blogger finanziario, una moneta lombarda, da un punto di vista giuridico è impossibile, il Trattato di Maastricht vieta appunto qualunque moneta parallela, dice che la sovranità monetaria è alla BCE che è l'unica, che ha appunto il compito di emettere le banconote e di controllare che gli stati che hanno il compito di battere moneta non ne battano troppa. Ma è possibile in qualche modo pensare a una moneta lombarda, bimbo alieno? Guarda, mi cogli molto di sorpresa. Credo che dal punto di vista giuridico, come dici tu giustamente, non ci sia lo spazio. Mi viene in mente il Bitcoin in questo momento come istintivamente, come cosa a cui magari fa riferimento, perché soluzioni tipo i mini assegni che abbiamo visto certo. O gli shake che abbiamo visto, credo che siano veramente ormai fuori da dal tempo, proprio in termini di regole condivise, e quindi credo che sì, l'unico spazio possa essere per una sorta di moneta virtuale che come dire, i cittadini lombardi decidono reciprocamente di accettare come strumento di pagamento. Sì, però ci vorrebbe qualcuno che lo emetta, ma soprattutto qualcuno che lo garantisce, perché la moneta deve essere qualcosa. No, ma credo che in realtà l'unica strada percorribile sia quella di un qualcosa dove non c'è nessuno che garantisce concretamente, ma come dire, uno strumento che viene accettato come mezzo di pagamento, accettato in termini condivisi. Da chi lo, mi chiedo come faccio ad essere solo lombardo, cosa succede se vado a Vercelli con questa moneta lombarda, vengo respinto. Sì, infatti, cioè la cosa è abbastanza complessa, ambiziosa, molto più direi quasi sicuramente velleitaria, perché può essere una provocazione, però da un punto di vista pratico poi si può capire che all'interno, che so, di una festa padronale o di un circolo ristretto ci possono essere dei mezzi di pagamento che possono magari che facilitare e magari anche aiutare a finanziare certe attività, certe iniziative, però tutto poi finisce lì, fare qualcosa. Non dobbiamo dimenticare che adesso sto pensando, così mentre ragioniamo su questa cosa, che le regole sono davvero molto stringenti. Pensiamo per esempio ai punti del supermercato che ormai molte catene assegnano ai clienti quando comprano, e che possono essere trasformati in sconti. Sono di fatto denaro virtuale, e lo sono al punto tale che le regole stabiliscono che questi punti abbiano una scadenza. Certo. Beh, quindi una certa forma di creazione di moneta in fondo c'è già, in vari modi, ma sono modi appunto che restano estremamente limitati. Dà molto l'idea di cercare delle soluzioni facili a problemi complessi, questo fatto di anche tornare alla lira. Ecco, parliamo di una cosa che magari, spero che non sia concreta, però rientra tra appunto le possibilità di cui si parla. Ecco, tra l'altro ricordo ai nostri ascoltatori, se vogliono intervenire al 349-238-6666 possono mandare i loro messaggi SMS su questo, anche su altri temi. Ecco, sì. Tornare alla lira, Borghiero, creerebbe più problemi di quanti ne risolverebbe. Ma allora, ieri è stato argomento su cui Draghi è stato interrogato da più voci, insomma, perché la questione Cipro ovviamente ha riportato alla ribalta la possibilità, l'ipotesi o comunque l'istanza che qualcuno possa uscire dall'euro spinta dall'interno, cioè essere espulso o per volontà propria, e quindi venire fuori dall'eurozona. Allora, ovviamente abbiamo innanzitutto un buco normativo, nel senso che non è previsto nella struttura con cui è stato creato l'euro un regolamento per l'uscita. Questo perché, per dare concretezza e valore a quella moneta non è stato pensato un meccanismo di entrata e uscita deliberata. Chi entra ci rimane, tutto e basta. Uscirne per debolezza in realtà significa aprire verosimilmente al default del paese, perché uscire dall'euro, adesso prendiamo il caso che ci sta più a cuore, che è quello dell'Italia, evidentemente uscire dall'euro per tornare alla moneta propria significa avere uno strumento da svalutare, quindi far esplodere di fatto il proprio debito, perché se io ho un debito in euro ed esco dall'euro per emettere una moneta e cominciare a ragionare e ritornare a ragionare in lire o in talleri, chiamiamoli come vogliamo, una moneta nuova, il mio debito in euro a questo punto assume una dimensione maggiore rispetto al mio PIL se io smetto di ragionare in euro per quanto riguarda i miei profitti. Potrei a questo punto ridenominare il mio debito anche quello nella nuova moneta, però evidentemente sto tradendo nei confronti degli investitori che ragionano invece ancora in euro le aspettative che gli avevo dato quando gli ho venduto il mio debito, perché gli restituirò non più euro, ma gli restituirò appunto questi talleri svalutati. Di conseguenza l'investitore estero, nel sottoscrivere il mio nuovo debito che emetterò, mi chiederà dei tassi adeguati al fatto che il debito è emesso in una moneta più debole e meno credibile, e pertanto il costo del mio debito aumenta appositamente. Se oggi ci lamentiamo dello spread, immaginiamoci a che spread avremmo il debito se lo emettessimo appunto in talleri. Ecco, anche forse bisognerebbe anche ricordarsi che negli anni in cui c'era la lira, gli anni 70, cioè avevamo un'inflazione che era al 20%, avevamo dei tassi di interesse che erano negativi in senso reale, che anche con i titoli di Stato si riusciva a spuntare dei buoni tassi di interesse, si pensava, perché erano 10-12%, ma ci si perdeva poi in termini reali. Quindi la lira non era poi quel fattore che, diciamo, certamente di sovranità nazionale, ma però con un paese che in fondo tagliava l'erba sotto i piedi dei risparmiatori senza dirlo a loro, ecco. Saluto Armando Massarenti, buongiorno Armando. Buongiorno. Tra poco torniamo da te a parlare di cultura, sì. Intanto sentiamo ancora qualche nota di Iannacci. C'è un ascoltatore che ci chiede: non si parla di Rubi? No, non parliamo di Rubi, potete leggere di Rubi sui giornali. Era lì? E l'amore? E l'amore lo colpì. E portava i scarpe del tennis. E parlava di perle. E puntava Escarde Tennis, una delle mitiche canzoni di Enzo Iannacci, è diventata poi anche un simbolo, l'ho ricordato nell'omelia del funerale che ha celebrato. Escarde Tennis sono diventati il simbolo poi degli immigrati, di un'iniziativa della Caritas. Escarde Tennis è una rivista fatta dagli emarginati per cercare appunto di reinserirli nella società, quindi un'iniziativa sociale che tra l'altro Iannacci sponsorizzava un po' silenziosamente, come era nel suo stile. E prima di andare a sentire le notizie sul traffico, una battuta da Massarenti: è già chiuso il numero della domenica, Armando? Praticamente sì, e devo dire che Iannacci, di cui ci siamo occupati domenica scorsa, è un po' predominante al numero precedente, e questo nel senso che queste canzoni bellissime di Iannacci erano poi dei micro racconti, avevano una grande efficacia perché erano canzoni racconto, no? Ci raccontavano, certo, una storia con grande brevità, e la copertina di questa domenica riguarda proprio la capacità di comunicare in maniera veloce, in maniera importante, è un po' come facciamo quando facciamo un tweet oppure ci mandiamo un sms, però la cosa interessante è che ci caliamo invece nel secolo dei lumi e parliamo soprattutto di un grande personaggio dei lumi che era Diderot. 24 mattino. Rieccoci qua con 24 mattino. Gianfranco Fabi, qualche ascoltatore con gli sms 349-238-6666 ci chiede: ma Milan dov'è? Milan non lo so dove sia. Lui ha detto che andava a Pyongyang, ma penso che sia uno scherzo. È sicuramente in vacanza a Pyongyang, ne parleremo tra poco. Tra l'altro, Bimbo Rieno, proprio nel tuo blog c'è una risata lo seppellirà, un po' scaramantica voglia di esorcizzare le paure. Kim Jong-un, questo nuovo dittatore coreano, pensi davvero che basterà una risata per seppellirlo? No, ovviamente purtroppo no. Ho voluto, come dici bene, esorcizzare, nel senso di postare qualche battuta e scherzare un po' su questa paradossale situazione di un 29enne, se ricordo bene le date, che si atteggia come se io andassi a casa di Mike Tyson a dire: vieni fuori che ti mordo un orecchio, insomma. Sì, purtroppo però ha anche a disposizione qualche minaccia concreta, forse non tanto per gli Stati Uniti quanto per i suoi vicini della Corea del Sud, esatto, se vivessi non tanto a Pyongyang quanto a Seoul, qualche problema forse, qualche preoccupazione forse lo avrei. Ma sentiamo ancora qualche nota di Enzo Iannacci. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte. Quando è passato davanti a lui un carabiniere. Insomma, un ghisa, tricariba e un metronotte. anche una piega la farà anche un plisse. Eh sì, questa era la criminalità di un tempo, insomma, faceva il palo della banda dell'Ortica. Quello attuale ne parleremo poi con Roberto Saviano alle 8:30, è qualcosa di molto più drammatico, di molto più disumano, di molto più complesso e di molto più ramificato, indubbiamente. Questa visione un po' romantica forse ci aiuta un po' a guardare le cose con un po' di distacco e di distacco, ma anche di profondità della cultura. Allora, Armando Massarenti, di che cosa parla la copertina del prossimo libro domenicale? Diderot, mi dicevi? Sì, allora, ed è piuttosto notevole come novità, perché Diderot potrebbe aver inventato qualcosa di molto simile al Twitter. A parlarcene è una delle grandi star, diciamo, da più di mezzo secolo della storia della letteratura comparata, che è Jean Starobinsky, questo grande studioso che insegna a Ginevra e che ha scritto un libro di cui, che è uscito in francese, di cui noi pubblichiamo una parte, che è appunto dedicato a Diderot, a questo grande personaggio francese, uno dei due più importanti enciclopedisti francesi, due autori dell'enciclopedia, due curatori dell'enciclopedia, l'altro è d'Alembert naturalmente, ma qui ci fa vedere Starobinsky un'idea dell'illuminismo veramente di grande modernità. Già Darnton, il grande bibliotecario di New York, ci aveva fatto vedere in un libro quanto l'illuminismo è stata prima della nostra la più grande era della comunicazione, cioè si comunicava appunto con grande velocità, con grande incisività. E appunto Diderot, questo libro si intitola Il cinguettio del diavolo e si parla appunto di una società del cinguettio, cioè un po' come è appunto il nostro Twitter, cioè una... E lo si fa in due sensi, cioè in un senso positivo e in uno negativo, cioè la teorizzazione da un lato, un po' come dicevamo le piccole canzoni di piccole grandi canzoni di Iannacci molto poetiche che raccontano in brevissimo tempo un grande dramma umano e anche con grande significato universale dal punto di vista dei valori, come giustamente sottolineavi tu, quindi qualcosa di molto breve, di incisivo, profondo, elegante, che era il tratto di molta comunicazione dell'era dei lumi, di cui era Diderot era un po' il regista molto spesso, e che erano spesso liberi pensieri, cioè capacità di esprimere il libero pensiero in una società molto variegata e molto ricca, ma allo stesso tempo questi quasi ad anticipare i rischi di un certo tipo di comunicazione di questo genere, Diderot paragona anche questi cinguetti a quelli di uccelli in gabbia che, lungi dall'essere amici della ragione e della verità, che poi concepiva la verità, dice Starobinsky, come un bene comune, no? Qualcosa che deve circolare nella maniera più esatta e larga possibile, invece questi uccelli in gabbia possono diventare delle vittime di cliché, di luoghi comuni e di un chiacchiericcio diffuso. Ecco, un chiacchiericcio diffuso, ecco, scusa Armando, ma è proprio questo paragone tra l'illuminismo e l'epoca attuale, con questa invadenza in un certo senso di Twitter, che non sono tanto uccelli in gabbia quanto sono ormai stormi liberi che vanno non si sa bene dove. Io volevo chiedere a Bimbo Ariedo, che è un grande frequentatore di blog, di Twitter, ma tra 5 anni ci sarà ancora Twitter? Ma mi viene da dire istintivamente di sì, perché mi sembra che sia soltanto ancora, stiamo vedendo soltanto la punta di un iceberg di quello che è la società della comunicazione, diciamo, del futuro, se vogliamo dire questo parolone. Qualche giorno fa io mi sono imbattuto nel sito del partito di Wikileaks in Australia, che è di recentissima fondazione e che ha delle similitudini con il movimento 5 Stelle, evidentemente, però ha una struttura molto diversa dal punto di vista dell'approccio, e mi fa pensare ad una società dove la compartecipazione dei singoli alla formazione dell'opinione pubblica sarà più elevata di oggi. Naturalmente dobbiamo ancora strutturare dei filtri. In questo momento su internet c'è la possibilità di pubblicare con pari dignità da parte di chiunque, quindi rischiamo che un testo ben composto, ma che in realtà presenta delle fregnacce, risulti credibile magari più di qualcosa che invece è scritto in maniera disordinata, ma che contiene delle verità. Quindi credo che dobbiamo provare il modo di, ma come dire, una cosa che verrà da sola probabilmente, di dare organismo e priorità alla possibilità di ciascuno di interagire e di contribuire all'informazione collettiva con la propria goccia. Ecco, bisogna che forse non sia solo una goccia che rimane isolata, un tweet che rimanga isolato, ma che sia uno dei tanti strumenti, tweet per dare un'informazione rapida, poi magari internet, un blog per approfondire, un giornale per riflettere. Armando Massarenti, in questo senso l'importante è usare l'insieme degli strumenti. La cultura in un tweet non si fa, ma può dare forse un tweet anche una sollecitazione ad approfondire. Armando. Sì, dunque diciamo che il supplemento della domenica è poi qualche cosa che dal punto di vista delle modalità della comunicazione è in un certo senso l'opposto, proprio come diceva Diderot, cioè appunto il tweet può essere qualcosa di fortemente incisivo, ma per esempio noi abbiamo sempre privilegiato, e ne abbiamo qualche esempio anche in questo numero, oltre alla copertina su Diderot, le forme brevi, no? A partire dalla mia rubrica che si chiama Filosofia Minima, o a partire da quella del direttore che è il Memorandum, che sono rubriche di poche righe, o quella di Gianfranco Ravasi che questa settimana è dedicata alla pazienza, cioè alla virtù più lontana da quella di chi invece appunto continuamente comunica attraverso internet e attraverso soprattutto i tweet, cioè che invece sono dettati dall'impazienza. Ecco, ma allora un supplemento della domenica così articolato, sono ben 28 pagine che parlano di letteratura, filosofia, arte, spettacoli, scienza, cioè quindi cose molto impegnative. Oppure che ci raccontano la letteratura in modi strani e diversi. Per esempio abbiamo una terza pagina che parla di un esperimento molto bello di Luigi Ricuperati, un romanzo che è in uscita, che è un romanzo che è fatto di o con le immagini, e quindi induce i nostri due autori di una delle rubriche, altra rubrica breve che qui però abbiamo fatto più lunga perché è un dialogo, Roberto Casacchi e Achille Varzi, che pubblicano ogni settimana Le semplicità insormontabili, che sono dei veri e propri racconti scritti in forma di dialogo. Qui dialogano su che cosa? Sulla possibilità di scrivere un romanzo sia in forma scritta sia per immagini, che è questo l'esperimento di Recuperati. Ed è un altro grande elemento quello di recuperare l'immagine, recuperare poi in fondo anche il gusto di guardare. Esatto. Bello, scusami se ti ho interrotto Armando, ma i tempi sono i tempi. Hai fatto comunque un'illustrazione e forse hai dato qualche curiosità a chi ci ascolta per andare a leggere domenica il supplemento del Sole 24 Ore, di cui Armando Massarenti è il responsabile. Io ringrazio Armando, ringrazio anche Bimbo Alieno. I minuti, i secondi scorrono ormai irrefrenabili, non si possono fermare. A voi vi do appuntamento tra un quarto d'ora per la rassegna stampa. Parleremo delle cose di oggi, come ci chiedono anche gli ascoltatori, ma non parlate di Onida, ne parleremo dopo, ne riportano tutti i giornali, ad linea AGR, e poi alle 7:15 la rassegna stampa. Ventiquattro mattino, l'Italia si desta. Buongiorno, ben alzati, ben svegliati, buon lavoro da Gianfranco Fabi. Vi ricordo Alessandro Milana oggi e la settimana prossima sarà in vacanza, fatevene una ragione. Sono qui con voi adesso per leggere un po' i giornali di oggi. Gli argomenti ovviamente sulle prime pagine domina la politica con due temi di fondo: una, questa polemica sui saggi, una polemica innescata anche dallo scherzo di Giuseppe Cruciani di Radio 24, con la Zanzara, con questa telefonata finta di Margherita Hack a Valerio Onida, e poi il problema del PDL, del PD, con le dichiarazioni di Renzi. Sulla telefonata di Onida, tutta l'audio è sul sito di Radio 24, in cui c'è anche largo spazio sul Radio Day, che oggi Radio 24 dedica ai pagamenti della pubblica amministrazione verso le imprese, ma tutto anche l'audio della telefonata della falsa Margherita Hack a Valerio Onida la trovate sul sito. E invece partiamo dai problemi della politica con questi saggi. Repubblica, il PDL a Napolitano, via i saggi, trappola radiofonica al costituzionalista che poi si scusa, incontro Bersani-Monti, intesa per il nuovo capo dello Stato, gaffe di Onida, siamo inutili, Renzi scontro nel PD, il Colle, mai perso tempo. Lo stesso, sullo stesso tema c'è il titolo di apertura del Corriere della Sera, Napolitano, non perdo tempo, gaffe di Onida su Saggi e Berlusconi, il PDL lasci. Napolitano anche replicato a Renzi, infatti Corriere della Sera dice il Presidente replica a Renzi, il PD spaccato sulle parole del sindaco, l'ira dei bersaniani. Ecco, le parole di Renzi, abbiamo forse un piccolo taglio sulle parole di Renzi ieri sui tempi della politica. Persino la Chiesa, che non è propriamente un modello di speditezza, è riuscita a organizzarsi, e avete visto in che tempi. Noi con il sistema politico che abbiamo non abbiamo ancora capito chi ha vinto e chi ha perso le elezioni. Allora, da sindaco di una città, che è una città dove peraltro la situazione economica è migliore rispetto ad altri pezzi dell'Italia, dico fate presto, facciano presto, le soluzioni tecniche se si vuole si trovano, ma bisogna volerlo e bisogna smettere di pensare ai destini dei leader politici e pensare ai problemi del paese. Ecco, il problema della politica, appunto, del PD, gelo tra Bersani e Renzi, è il titolo di apertura della Stampa. Il sindaco, sbrighiamoci, come avete sentito, anche la Chiesa è più veloce della politica, Napolitano, siamo lenti, non credo. Il leader dei democratici, ancora la Stampa, si sfoga con i suoi, Matteo teme il mio successo. E c'è un editoriale, un commento di Luca Ricolfi, lo vedremo nella seconda parte, in cui parla della sfida sull'onore del PD, e Ricolfi si chiede se ci sarà una scissione all'interno del PD, se questa scissione sarà a destra o a sinistra, oppure se non ci sarà e Renzi in qualche modo potrà essere anche un elemento di nuova unità per questo partito. È un problema aperto, un problema su cui si possono ovviamente avere idee diverse. Un'idea sicura ce l'ha Libero, resa dei conti, Renzi rottama il PD, il sindaco smaschera Bersani, ancora Libero, il titolo di apertura, stiamo perdendo tempo, accordo con il PDL o voto, e ne denuncia la doppiezza nei confronti di Berlusconi. Il partito esplode, ma intanto il paese resta nel pantano e il saggio Onida smentisce Napolitano. Il partito esplode, Stefano Fassina, responsabile economico del PD, era intervenuto ieri sulle parole di Renzi, sentiamo cosa ha detto. Ma se Renzi ha qualche soluzione può andare al Quirinale, la consiglia al presidente Napolitano. Non stiamo perdendo tempo, stiamo cercando di risolvere una situazione difficile, continuare a fare grilli parlanti non credo ci aiuti. Ecco, questo era Stefano Fassina e il giornale Smascherati i giochi, Quirinale PD, è tutto uno scherzo. Finta Margherita Hack sta a Onida, noi saggi non serviamo a nulla, Berlusconi va da casa. Queste sono le parole di Valerio Onida. Renzi forza la mano, Bersani corre ai ripari e tratta con il PDL. Il commento, l'editoriale del direttore Alessandro Sallusti, dice povera Italia, ogni giorno se ne scopre una, ieri addirittura tre. Vedremo poi la seconda parte, quali sono queste tre scoperte ieri italiane. Renzi o la rottamazione del PD è il titolo del Foglio Quotidiano, l'offensiva del sindaco contro Bersani, la nuova sfida lanciata alla nomenclatura e la ragione della scomparsa di qualsiasi piano fuori dal partito, perché il rottamatore oggi si ritrova con il PD in mano. Ecco, su questo tema delle dichiarazioni di Renzi c'è stata anche Maria Stella Germini del PDL ieri che è intervenuta, sentiamo cosa ha detto. Persino Renzi ha dovuto riconoscere la bontà della nostra posizione, il nodo della questione non cambia, l'alternativa è fra un governo di larghe intese che affronti subito l'emergenza economica o il voto. Bersani ha fatto perdere al Paese più di un mese, quindi noi ci auguriamo che il veto nei confronti del PDL di un governo che veda la partecipazione dei due maggiori partiti PD e PDL cada quanto prima. Ecco, sul tema appunto della partecipazione dei due partiti al governo e sulle possibilità che ci sia un accordo per il Quirinale, si sofferma il Fatto Quotidiano. Quirinale fra PD e Movimento 5 Stelle vincono Bonino e Rodotà. Il Fatto interpella i parlamentari che eleggeranno il nuovo capo dello Stato, al secondo posto Napolitano, che ha sempre escluso i bis, poi Prodi, pari merito con l'ex garante della privacy, cioè Rodotà, e quindi Gabanelli, Finocchiaro, Zagrebeschi, Guido Rossi, Saraceno e Gino Strada. Il presidente piccato con Renzi, non stiamo perdendo tempo. Ecco, questi i nomi che il Fatto Quotidiano lascia emergere nelle discussioni che ci sono ormai aperte tra il 18 aprile, lo ricordiamo, si inizierà a votare per il nuovo capo dello Stato e per ora si fanno tanti nomi, ma quale possa essere la soluzione è ancora difficile da intravedere. Sui temi più strettamente economici si sofferma il Sole 24 Ore. Draghi, più rischi sulla ripresa. Il governatore della Banca Centrale Europea ha parlato ieri a Francoforte. Il Sole 24 Ore sottolinea: Francoforte lascia i tassi invariati, lo 0,75%, ma è pronta ad agire. I governi dell'Eurozona devono intensificare le riforme strutturali. La Banca del Giappone raddoppia la liquidità, giù le borse, Milano meno 0,30%. E ci sono due commenti: euroscettici più forti di Alberto Quadriocurzio e politica più debole di Carlo Bastasin. Ecco, vi ricordo che il Sole 24 Ore ha anche degli approfondimenti sugli enti locali, la capacità di rimborso in futuro, sul costo della TARES. Tra l'altro sulla TARES c'è un editoriale, lo vedremo tra poco, del Corriere della Sera. Sul Sole 24 Ore ci sono le simulazioni per i singoli contribuenti su quanto si pagherà come aggravio impositivo per questa nuova tassa sui rifiuti. Poi ci sono le novità sugli studi del settore, sul costo del lavoro e un approfondimento sulla Banca Centrale Europea. Il titolo principale è di Avvenire, proprio dedicato a pagare le imprese per poter ripartire. Vi ricordo che Radio 24 dedica oggi il suo Radio Day e anche larga parte del sito radio24.it a questo tema dei pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese, e Avvenire appunto sottolinea come sia indispensabile questo pagamento come elemento che possa sbloccare appunto una ripresa che appare difficile, che ieri appunto il governatore Draghi ha detto ci sono ancora rischi, soprattutto perché i paesi non stanno facendo le riforme necessarie. Di riforme ha parlato ieri Roberto Maroni, nuovo governatore della Lombardia, e la Padania dice: Lombardia modello Maroni, Equitalia addio, 1 miliardo alle PMI. Tra le due cose che ha annunciato Maroni c'è proprio la creazione di una nuova agenzia per la riscossione dei tributi a livello regionale e poi il fatto di nuovi stanziamenti per le piccole e medie imprese. L'Unità, il giornale del Partito Democratico, ha un grande titolo: no di Renzi al governo Bersani, bufera nel PD, parla come il cavaliere, Napolitano al sindaco, non stiamo perdendo tempo. E c'è una vignetta di Staino in cui ci sono i soliti due personaggi, la bimba e il papà, e la bimba chiede dove realizzerà i suoi incontri Bersani, e il padre risponde: con Berlusconi non so, con Renzi penso all'alba dietro il muro del convento. E questo la dice tutta sul clima che c'è. 24 mattino. Rieccoci qua con i nostri giornali di oggi. Come vi avevo detto, largo spazio dedicato alla politica. Potete trovare anche le voci di Onida, che è stato un po' il tema di fondo della giornata, della serata di ieri, sul sito di Radio 24, radio24.it. Ma vediamo adesso in questa seconda parte della nostra rassegna stampa di andare a vedere un po' qualche commento al di là appunto delle notizie di cronaca, qualche commento che riguarda, come vi dicevo, vi anticipavo nella prima parte, Luca Ricolfi, per esempio. Molto interessante il commento che fa sul Partito Democratico. mediatico dopo questa disfida, queste parole infuocate tra Bersani e Renzi, tra i bersaniani e i renziani. Renzi che dice si è perso troppo tempo, e allora qualcuno dice: beh, in fondo siamo di fronte a due posizioni nettamente diverse, come fanno a convivere? E la sfida sull'onore dei PD, ci arriverà una scissione, si chiede Luca Ricolfi. E Luca Ricolfi però ha una visione, diciamo, un po' diversa. Leggiamo le ultime parti del suo articolo. Fino a ieri il sindaco di Firenze rappresentava solo la componente liberale e dialogante del PD. Da oggi Renzi sembra candidarsi alla guida del partito anche come colui che gli difende la dignità e le buone ragioni. E a pensarci bene, è del tutto naturale che questa difesa venga proprio da lui e non dalla vecchia guardia. Non solo, aggiunge Luca Ricolfi sulla Stampa, perché la fortezza Renzi è così poco compromessa con il passato da risultare inespugnabile dal grillismo, ma perché Renzi è l'unico dirigente del PD che ha capito fino in fondo quanto sia sbagliato, nonché autolesionistico, il disprezzo per l'avversario. Il trattamento che i grillini stanno riservando al PD, fatto di derisione e disistima, è il medesimo che il PD ha sempre riservato all'avversario di destra. È possibile che molti dirigenti del PD non se ne siano ancora resi conto e non ne facciano una ragione, ma la realtà è che Grillo sta al PD come il PD sta al PDL. E ancora Luca Ricolfi, fuori di metafora matematica, per i grillini la classe dirigente del PD è impresentabile, esattamente come il PD lo è quella del PDL. L'umiliazione del PD, accusato dal Movimento 5 Stelle di ogni nefandezza, è una sorta di contrappasso per 20 anni di disprezzo verso gli avversari politici. E conclude Luca Ricolfi in questo editoriale della Stampa. Non è detto che Matteo Renzi riesca nell'impresa di restituire al PD l'onore perduto, se non altro perché il passato prossimo di quel partito non è particolarmente onorevole. E tuttavia già sarebbe un grande risultato che il tentativo di Renzi sortisse almeno un effetto, quello di far comprendere a tutti, e innanzitutto al suo partito, che il disprezzo dell'avversario, la sua derisione, la sua umiliazione sono solo il vecchio della politica, le scorie di un passato che speriamo non ritorni più. Ecco, se possibile io sottoscrivo al 100% queste parole di Luca Ricolfi. La politica è fatta di dialogo, la politica deve essere fatta di comprensione, deve essere fatta di capacità appunto di approfondire i temi dell'avversario, non deve essere fatta di invettive, non deve essere fatta di minacce, non deve essere fatta di volgarità, come spesso è fatta in questi ultimi tempi, volgarità da cui personalmente mi dissocio. E sul fronte della politica volevo cercare anche il commento di Stefano Folli sul Sole 24 Ore. Stefano Folli che parla appunto di lampi nella fortezza Bastiani. L'attacco di Renzi è figlio anche di una debolezza, e dice Stefano Folli: il sindaco di Firenze ormai tende a delegittimare Bersani, a cui imputa l'atteggiamento remissivo di fronte ai 5 Stelle, ed è un cambio di rotta. Finora egli aveva sempre evitato, almeno in via ufficiale, di puntare sul fallimento del segretario del suo partito. In effetti, continua Stefano Folli, si tratta di una strategia sempre rischiosa, ma oggi Renzi, temendo di essere scavalcato dagli eventi e messo ai margini, è costretto a passare all'offensiva, fino al punto di boicottare la linea del PD sul capo dello Stato se dipendesse dall'intesa coi grillini. Forse sì, risponde Stefano Folli, ma in tal caso il sindaco dovrebbe voltare pagina e cominciare una nuova vita politica, lontano dai democratici, cosa che finora ha sempre escluso, puntando sulle primarie e sulla leadership da conquistare. Anche l'incidente di Valerio Nida, continua Stefano Folli, è un frutto avvelenato dello stallo. La beffa telefonica della Zanzara ha creato imbarazzo nei vertici istituzionali e ha indotto il presidente emerito della Consulta, uno dei 10 saggi, a scrivere in fretta una lettera di scuse a Napolitano e a Berlusconi. In apparenza, conclude Stefano Folli, la questione è chiusa. In realtà rivela quanto sia alto il tasso di nervosismo nella fortezza Bastiani, che è diventata la nostra politica, la calma prima della tempesta. Lo sapremo presto, conclude Stefano Folli, e ricordo, chi vuole riascoltare le parole di Onida può andare sul sito radio24.it. E sul Sole 24 Ore vi ricordavo l'articolo di Alberto Quadriocurzio, euroscettici più forti, e Quadriocurzio ricorda appunto il fatto che l'Italia comunque deve imporre propria linea, la propria linea all'Europa e sottolinea il fatto che il commissario europeo, il commissario che sta guardando appunto ai conti pubblici italiani, il commissario Olli Rehn, dice a Quadio Curzio: il governo non deve dimenticarsi di dire a Rehn che il nostro deficit, previsto tra i più bassi dell'Eurozona, al 2,1% del 2013, rimarrà comunque inferiore a quello francese e a quello spagnolo, paesi che hanno avuto un trattamento più favorevole dalla Commissione, non perché sono meglio di noi, ma perché sono politicamente e istituzionalmente più forti. Perché non basta dire che noi dobbiamo un debito pubblico sul PIL più alto del loro, dati altri nostri punti di forza, in particolare rispetto alla Spagna, che nelle previsioni avrà un deficit del 6,7%, che ha chiesto e ottenuto dal Fondo Europeo un prestito di 100 miliardi di euro, che ha pagato buona parte dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso le imprese con un marchingegno finanziario su cui la Commissione nulla ha detto. Infine, è ancora Alberto Quadrio Curzio sul Sole 24 Ore: il governo dovrebbe segnalare a Rehn che il pagamento di gran parte dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso le imprese darebbe una spinta al PIL, sicché l'eventuale ma evitabile crescita del deficit sul PIL sopra il 3% ritornerebbe poi sotto. In conclusione, solo passando dal rigore alla razionalità fiscale orientata alla crescita proteggeremo l'Italia e l'Eurozona, altrimenti non saranno più gli euroscettici a tirarci fuori dai guai, con soluzioni che meritano comunque attenzione, perché prevarranno gli euro avversi che ci porteranno al disastro, dice Alberto Quadrio Curzio sul Sole 24 Ore. E sul tema economico si sofferma anche il Corriere della Sera. Tra l'altro, una delle notizie del Corriere della Sera, l'abbiamo già parlato del GR, è il fatto che il meteo è pessimista, Zaia oscura le previsioni, il Veneto troppi danni al turismo, questa richiesta del presidente della Regione Veneto di non fare più previsioni meteorologiche, soprattutto se sono negative, ma purtroppo il tempo non lo fanno solo le previsioni, lo fanno anche le nuvole come quelle che ci sono su Milano adesso. Ma parliamo della realtà economica. Vi ho già segnalato l'editoriale del Corriere della Sera di Massimo Fracaro e Nicola Saldutti, patrimoniale mascherata, e parla dell'assurda vicenda della TARES, di questa nuova tassa, adesso vedremo di che cosa si tratta, che dovrebbe essere introdotta nei prossimi mesi e oltre che nuova è un'imposta maggiore delle precedenti. La sensazione, o meglio la certezza, scrivono Fracaro e Saldutti, è che i contribuenti ancora una volta corrono il rischio di perdere su tutti i fronti. Già l'IMU, apparsa all'orizzonte come imposta municipale destinata a finanziare i comuni, è diventata nei fatti una pesante patrimoniale sulla casa. Adesso si rischia la replica con la TARES, una sorta di mostriciattolo giuridico che consegna in sé due diversi tributi: la vecchia tassa di rifiuti e la nuova imposta sui servizi indivisibili dei comuni, le spese per l'illuminazione pubblica, la polizia municipale, il personale degli uffici amministrativi. Nei libri di diritto tributario, ricordano Fracaro e Saldutti sul Corriere della Sera, esistono le tasse, sono il corrispettivo di un servizio, come appunto la raccolta dei rifiuti, e le imposte, i soldi che vanno a finanziare in modo indistinto il funzionamento della macchina statale e locale. Il fisco italiano, unico al mondo, è riuscito nell'impresa di farle convivere sotto uno stesso nome. Una sorta di esperimento, non si sa quanto riuscito, di mutazione genetica. Un prelievo sorrettizio e orologeria, visto che il governo attualmente in carica lo lascia in eredità a quello successivo. Si sentono già voci di una possibile manovra e alla fine chiunque salirà a Palazzo Chigi avrà davanti due sole strade: ridurre le spese o aumentare le imposte. Ecco, questo titolo patrimoniale mascherata, questo articolo del Corriere della Sera, torna in fondo al tema centrale della politica italiana, un tema appunto che da cui non si sfugge. Bisogna trovare un nuovo equilibrio dei conti pubblici, bisogna ritrovare appunto quell'equilibrio che è fatto anche di non tanto di nuove entrate, speriamo, ma soprattutto di una razionalità e un'efficienza della spesa. Vi avevo accennato nella prima parte al commento di Alessandro Sallusti sul Giornale, ne leggiamo l'introduzione: povera Italia, ogni giorno se ne scopre una, ieri addirittura tre. La prima, l'inchiesta su Berlusconi, nota come Bunga Bunga, è stata ed è, come ha dichiarato ieri la presunta vittima Rubi, un atto di violenza psicologica della magistratura su una ragazza con il dichiarato scopo di rovinare l'immagine e la vita del cavaliere. La seconda, come dimostra l'onorevole Capezzone nell'articolo che trovate su questa stessa pagina del giornale, lo ricordo, il governo Monti ha truccato i conti del paese tanto che sarà necessaria una dura manovra finanziaria. Terzo, i 10 saggi scelti da Napolitano per trovare una soluzione allo stallo della politica, per ammissione del più autorevole di loro, sono solo una farsa organizzata per perdere tempo, come da noi sostenuto fino dalla prima ora. Questo era Alessandro Sallusti sulla prima pagina del giornale. Ci torneremo tra poco. Linea al traffico 24 mattino. Eccoci qua per l'ultima parte della rassegna stampa. Vi parlavo appunto dell'articolo di Alessandro Sallusti sul giornale, che sottolinea appunto come uno dei casi appunto di ieri sia questa clamorosa protesta di Rubi, protesta di fronte al Tribunale di Milano, una protesta contro i giudici che appunto non l'avrebbero interrogata. Su questo c'è un piccolo commento da parte di Massimo Gramellini sulla stampa, che tra l'altro ricorda, e lo facciamo un po' per par condicio, che in fondo l'hanno convocata due volte e lei non si è mai schiodata dal Messico, e questo è quanto ricorda Massimo Gramellini con un titolo ufficio sceneggiature del suo buongiorno sulla stampa. Ma do il buongiorno anche a Giuseppe Chiellino. Buongiorno Chiellino. Buongiorno Gianfranco. Caporedattore del Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore dedica grande spazio, come sempre, anche al tema della pubblica amministrazione. Tra l'altro c'è un commento di Susanna Camusso su questo fatto che i rimborsi devono tradursi in occupazione. È un tema che il Sole 24 Ore segue con particolare interesse. Tra l'altro anche il Radio Day di Radio 24 oggi è dedicato a questo. Chiellino. Sì, è un'intervista di Giorgio Pogliotti a Susanna Camusso che abbiamo titolato Sbloccare i debiti della PA e sì agli sgravi IRAP. Sono i temi principali che tocca il leader della CGIL, e sostanzialmente lei si dice d'accordo con il presidente di Confindustria, Squinzi, sulla necessità che i crediti che le imprese vantano nei confronti degli enti locali, degli enti pubblici, della pubblica amministrazione in generale, debbano essere restituiti al più presto, proprio per ridare fiato all'economia e alle imprese che rischiano di chiudere non per debiti, come abbiamo scritto più volte, ma per crediti. Ecco, tra l'altro si parla anche del salta lo stop agli investimenti dei comuni. Ci sarà maggiore possibilità per i comuni che erano bloccati da questo famoso patto di stabilità di dare qualche soldo per investire, per fare dei lavori pubblici che tra l'altro non servono solo a creare lavoro, cosa che è importante, ma anche a rendere più funzionali, più efficienti le città. Sì, a modernizzare il paese, diciamo. Sì, infatti questo è uno degli argomenti principali che tocchiamo sul giornale di oggi. Stiamo seguendo passo passo l'evoluzione del testo del decreto che dovrebbe essere approvato nel fine settimana con un Consiglio dei Ministri che è stato preconvocato, nel senso che non si sa ancora esattamente quando si terrà, ma probabilmente tra sabato e domenica. E, l'altra cosa molto interessante su questo argomento che abbiamo sul giornale di oggi sono i dati sulle città capoluogo, i dati su quanto ogni città, ogni comune ha a disposizione per cominciare a pagare questi debiti non appena il decreto sarà approvato. Viene fuori che Milano è la città che ha la maggiore disponibilità di risorse, 864 milioni, quindi una buona notizia per le imprese che hanno un credito nei confronti del Comune di Milano. Mentre Roma, che ha l'esposizione maggiore, 3 miliardi e mezzo di impegni di spesa, ha una disponibilità che è pari alla metà di quella di Milano. Grazie Chiellino, andiamo avanti con i nostri commenti, leggendo appunto i commenti dei vari giornali. Sul Messaggero, il Messaggero che appunto ha come titolo principale, non l'avevo detto prima, sempre la polemica sui saggi di Valerio Nilo, saggi inutili, gaff e lite, però ha una piccola apertura, ripresa a rischio, allarme della BCE e un commento di Marco Fortis: l'Europa per ripartire ha bisogno dell'Italia. E anche qui, come già nel commento del Sole 24 Ore, si parla appunto di un'Italia che deve ritrovare una strada, superando appunto il rigore imposto anche dall'Europa, imposto anche giustamente dall'Europa degli altri passati. E scrive Marco Fortis: del resto la consapevolezza che di troppo rigore si può anche morire comincia a farsi strada a Bruxelles, e per questo sono dato più tempo a Francia e Spagna per rientrare negli obblighi del deficit, mentre all'Italia, come premio per aver fatto i compiti a casa, è stato dato il via libera sullo smaltimento dei debiti della pubblica amministrazione. Ciò non significa, sottolinea Marco Fortis sul Messaggero, che l'Europa debba rinnegare la via delle riforme strutturali, del consolidamento fiscale, della ristrutturazione del sistema finanziario, la cui importanza ieri è stata ribadita da Draghi. Ma quella del rigore è una via che va percorsa col giusto equilibrio, senza generare disoccupazione di massa e decrescita, disperazione diffusa tra la gente e crescenti demotivazioni verso la causa europea. L'euro è nato per essere la moneta di una regione prospera del mondo, non per essere una trappola di povertà. Questo è il molto chiaro commento di Marco Forsi. Sfruttare l'occasione dell'euro per appunto cercare di realizzare una crescita che è fatta di efficienza dei conti più che di rigore, di solo rigore. Vi segnalo da Avvenire un articolo di Vittorio Emanuele Parsi, che avremo ospite alle 8:15, proprio sul tema della Corea. La Corea è un paese lontano, no? È un paese lontano, ma che in cui soffiano venti di guerra, che devono comunque preoccuparci, perché la dittatura di Kim Jong-un ha certamente fatto dei passi pericolosi. E Vittorio Emanuele Parsi sottolinea su Avvenire: neppure la fine della guerra fredda, la scomparsa dell'URSS e l'ascesa della nuova Cina hanno scalfito la situazione della penisola coreana, dove il regime di Pyongyang assomiglia a un fossile vivente. Nonostante gli odierni rapporti tra Cina e gli Stati Uniti siamo molto diversi, Pechino continua a ritenere funzionare i propri interessi la sopravvivenza di una satrapia comunista che contribuisce a tenere ad alcune centinaia di miglia dai propri confini le truppe americane. Vittorio Emanuele Parsi su Avvenire, lo avremo ospite alle 8:15, e vi ricordo poi alle 8:30 avremo ospite Roberto Saviano per parlare del suo nuovo romanzo 000, dedicato al sistema e alla criminalità che ruota attorno al commercio della droga, della cocaina. Ma una piccolo salto laterale, parliamo anche di sport. La Gazzetta dello Sport, e c'è un'intervista a El Shaarawy del Milan, che dice che resto con Balotelli, Mario è arrivato al momento giusto. Ma c'è anche un inserto sulla Gazzetta dello Sport dedicato alla ripresa del moto mondiale. La sfida di Valentino Rossi agli spagnoli è partita bene, sentiamo cosa ha detto Valentino Rossi ieri. Sì, sono in forma, sono molto, molto motivato, e soprattutto sono felice di avere un'altra possibilità con la Yamaha ufficiale, che è la mia moto, che è la moto che mi ha dato tante soddisfazioni. Ecco, quindi sono soprattutto contento, perché penso che quest'anno ci potremo divertire, ecco, quella è la cosa più importante alla mia età. Ecco, ci potremo divertire forse anche gli appassionati di moto. Riprenderà domenica questa sfida in cui Valentino Rossi quest'anno è ritornato alla Yamaha, sempre con il numero 46, e sarà interessante vedere anche la Ducati che ha Dovizioso, un giovane e promettente pilota italiano. Ducati che, lo ricordo, è stata nei mesi scorsi acquisita dalla Audi, quindi è una casa italo-tedesca, e si spera appunto che l'Audi possa iniettare un po' di tecnologia e con un po' di capacità e di estrosità, come il Dovizioso è capace, possa fare magari qualche pulce anche a Valentino Rossi. Ma auguri a tutti e due, in bocca al lupo soprattutto a Valentino Rossi e a Dovizioso, che riprendono questa sfida del MotoGP. Se avviamo verso la conclusione, vorrei riprendere leggere da Avvenire una notizia che c'è anche su altri giornali, la Civiltà Cattolica, una rivista storica perché ha 163 anni, è stata fondata proprio in questi giorni, appunto ha festeggiato questo 163esimo compleanno, ma l'ha festeggiato cambiando anche veste, pur rimanendo nella sua rigorosità appunto formale, una rivista dei gesuiti, l'attenzione è particolarmente forte, anche perché appunto lo sappiamo, Papa Francesco è un papa gesuita e quindi la Civiltà Cattolica era l'unica rivista non ufficiale ma sicuramente ufficiosa, perché si dice ed è vero che le bozze vengono riviste dalla segreteria di Stato, e quindi quanto esce sulla Civiltà Cattolica è un commento autorevole della Chiesa. E Alessandro Zaccuri intervista padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, padre Spadaro che è anche un blogger, uno che è presente su Twitter, che guarda appunto alla nuova realtà anche dell'informazione. Matteo Ricci a Mountain View, Matteo Ricci è gesuita che andò in Cina secoli fa, Mountain View è la sede di Google, ecco, il gesuita che fu apostolo della Cina insieme a maestro nell'arte della memoria va in trasferta nella città californiana dove ha sede Google, la società che ambisce dalle strutture elettroniche al desiderio di un sapere ordinato e coerente, ed è Alessandro Zaccuri su Avvenire. E quindi c'è questo accordo tra la Civiltà Cattolica, 163 anni, e Google, la più moderna società informatica. Detto questo, ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento alle 8:15, parleremo di Corea, e alle 8:30 con Roberto Saviano. Grazie intanto a Carmelo Lauricella, che ringrazierò anche più tardi. A più tardi. Ventiquattro mattino. La politica nel tunnel. Buongiorno, buongiorno da Gianfranco Fabi, bentornati a 24 Mattino, parleremo con Roberto Saviano alle 8:30 del suo nuovo libro 000, parliamo di un altro problema altrettanto grave che è quello della Corea con Vittorio Emanuele Parsi. Buongiorno Parsi. Vittorio Emanuele Parsi dovrebbe essere in linea? Non c'è ancora, e vogliamo parlare con Vittorio Emanuele Parsi, che è docente di relazioni internazionali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica, editorialista di Avvenire e del Sole 24 Ore, dei rischi di guerra che si stanno presentando in Corea. Proprio oggi Vittorio Emanuele Parsi ha scritto sul Avvenire un editoriale, il titolo è Il fuoco coreano, ne abbiamo accennato nella prima parte del programma, torniamo adesso perché questa vicenda è una vicenda certamente lontana, certamente la Corea non è agli antipodi perché è nella parte settentrionale, però è certamente qualcosa che sta sconvolgendo le diplomazie internazionali, che pone dei nuovi rischi di guerra. La Corea del Nord è l'unico paese, e forse l'unico paese comunista che ancora resiste, possiamo considerare comunista anche Cuba. Vittorio Emanuele Parsi è in linea. Buongiorno Parsi. Buongiorno a voi. Ecco, appunto, stavo cercando di descrivere questa situazione della Corea del Nord, che è tornata a minacciare con le armi nucleari di cui è dotata non solo la Corea del Sud, ma anche gli Stati Uniti, gli stessi Stati Uniti, e gli Stati Uniti che stanno provvedendo anche a rafforzare le difese, hanno postato dei missili, soprattutto per proteggere la base di Guam, che è quella più raggiungibile dai missili coreani, e per difendere anche la Corea del Sud e il proprio territorio. E il suo articolo oggi, Parsi, dice giocare con i fiammiferi in un deposito di carburante è un comportamento così oggettivamente sconsiderato di una tale estrema pericolosità da far passare in secondo piano le reali intenzioni di chi lo mette in atto. Allora, siamo veramente di fronte a un rischio concreto di fronte alla Corea, Vittorio Emanuele Parsi? Ma il rischio c'è su due livelli, appunto. Da un lato è legato al fatto che questo è un confine residuo della guerra fredda, ma è veramente estremamente militarizzato, ed è un confine che sta in un'area in cui gli equilibri strategici sono stati un pochino, non hanno subito una sostanziale modifica dalla fine dell'89, sia in termini, diciamo così, geografici, sia in termini di rapporti di forza. E dall'altra parte c'è l'elemento importante, che è il regime ha una lunga tradizione di inaffidabilità e di, diciamo così, capacità negativa di sorprendere. Gli incidenti scatenati dai nordcoreani dalla fine della guerra di Corea nel 1953 ad oggi sono stati numerosissimi. Uno degli ultimi è stato quello dell'affondamento, appunto, Out of the Blue, di una corvetta sudcoreana, senza nessun preavviso, senza nessun motivo, senza nessun pretesto, pochi anni fa. Ma ricordiamo l'abbattimento di un jet civile, sempre sudcoreano, tentativo di eliminare una figura di vertice del regime del sud da parte del nord, e via discorrendo, attacchi sulla frontiera dei più brutali e cose di questo genere. Quindi effettivamente c'è un rischio, perché è molto difficile riuscire a condizionare questo paese. Ecco, perché sfugge anche a una certa logica, non bisogna dimenticare che è un regime molto stretto, un regime familiare di cui il comando si passa da padre in figlio. Questo giovane dittatore che è da meno di 30 anni, però ha forse un grandissimo, come hanno avuto i suoi predecessori, un grandissimo problema interno. È un paese non solo isolato, ma è un paese estremamente povero, che spende tutti i suoi soldi praticamente per le spese militari. Quindi ancora una volta la politica estera aggressiva è fatta per cementare una solidità del regime che all'interno ha anche molti rischi, mi togliamo dove parsi. Sì, in parte su questo c'è anche il fatto che su questo nuovo leader non sappiamo fino in fondo chi sia veramente, che controlla chi. Cioè, quando il leader è arrivato al potere ha fatto fuori i vertici militari, è sembrato un modo di affermare il suo potere personale. Qualcuno inizia a pensare oggi che invece forse quel sicuramente fosse semplicemente l'ordine ricevuto all'interno di una faida tra gli altri comandi militari, che in qualche modo i militari stiano controllando il potere. Quando parliamo di questo, dobbiamo pensare che in un paese come Nord Corea, ma come moltissimi paesi dell'Asia, il potere militare non è semplicemente il potere di disporre degli armamenti che si possono sognare, ma un potere economico, un potere che significa uno standard di vita completamente diverso dalla sua popolazione, e via discorrendo. L'altro elemento importante da considerare è che c'è stato un cambiamento in questi anni nella politica coreana. Fino a poco tempo fa la Corea utilizzava sostanzialmente il suo potenziale atomico per isolarsi dal resto del mondo, per poter continuare a fare a modo suo, per così dire, per garantire la sopravvivenza di questo fossile politico a 20 anni dalla fine del comunismo, oltre 20 anni ormai. E invece da un po' di tempo a questa parte la Corea sembra usare il potenziale atomico per utilizzare la comunità internazionale come sostegno suo malgrado al regime, estorcendone aiuti economici, estorcendone aiuti alimentari addirittura. Non dimentichiamo che è stata una disastrosa carestia qualche anno fa in Corea, indotta proprio dalle politiche assurde dal punto di vista economico e politico del regime. Questo cambiamento ha anche un po' spezzato Pechino, che è l'unico, diciamo così, leva su cui si può contare, ma è una leva che fatica ormai a trovare il suo perno interno. Ecco, la Cina peraltro appunto ha un ruolo fondamentale nell'area, ha sempre svolto un ruolo fondamentale, e anche la Cina ha avuto un passaggio di potere, un passaggio di consegne nelle ultime settimane. Ecco, ovviamente anche in Cina il segno della continuità, anche se le lotte interne certamente non palesi, certamente nascoste, non sono mancate. Però ecco, la Cina è sembrata in questa fase stare un po' alla finestra, sì, prendere le distanze dal regime della Nord Corea. Negli ambiti dell'ONU la Nord Corea è praticamente isolata, ha come amici ormai solo l'Iran di Ahmadinejad, mi sembra. Ecco, quale potrebbe essere l'atteggiamento della Cina verso la Nord Corea? La Cina chiaramente è esasperata da questo alleato riottoso, da questo bullo di periferia che fa la voce grossa, perché sa che tutto sommato all'amico grande e potente che lo può proteggere. È esasperata perché non dimentichiamo che la Cina conduce una politica nei confronti degli Stati Uniti che è molto, posso dire, molto ambigua, ma anche molto dedicata. Da un lato bisogna che gli Stati Uniti effettivamente continuino a essere presenti politicamente nell'area, perché la presenza americana rassicura i vicini della Cina sul fatto che la crescita cinese davvero sarà una crescita non minacciosa per gli altri, quindi paradossalmente è un elemento che aggiunge credibilità al disegno regionale cinese. dall'altra parte però la Cina, man mano che diventa più potente, sopporta sempre meno la tutela nell'ingombrante presenza di Washington nella regione, anche perché nel frattempo Washington sta intessendo rapporti politico-militari sempre più stretti con i paesi dell'area, ed è chiaro che il comportamento nordcoreano spinge i paesi vicini alla Cina a rimilitarizzare la Corea del Sud, ha detto chiaro e tondo che rivendica un diritto a una capacità autonoma di potenza nucleare nei confronti della Corea del Nord, il Giappone sta di fatto evitando di abbandonare il tabù nucleare e via discorrendo. Tutto questo va contro, diciamo così, gli interessi cinesi, che hanno bisogno di una certa quietezza per poter andare avanti e svilupparsi in armonia, perché significa anche poter non destinare ulteriori risorse oltre a quelle già ingenti che la Cina destina allo sforzo militare, tanto più in un momento di crisi economica. Quindi tutta questa politica così delicata, complessa, che deve essere veramente regolata come un orologio, non è che può, diciamo così, giovarsi del fatto di avere un pazzo che va avanti e indietro in bicicletta con una mazza da baseball in una cristalleria come Kim Jong-il. Quindi diciamo così che vorrebbe riportare i coreani a miglior consigli, però è chiaro che i cinesi non vogliono avere gli americani sul confine del fiume Yalu come i tempi di MacArthur, e questo non è un interesse strategico di lunga durata. Quindi tutta questa cosa spinge i cinesi a premere su Pyongyang, ma non li possono scaricare, anche perché non dimentichiamo che la Cina non è che abbia questa marea di alleati politico-militari nell'area. Molti degli alleati cinesi sono regimi, diciamo così, un tantinello imbarazzanti, dalla Corea del Nord alla Cambogia, al Myanmar, cioè sono questi poi gli amici dei cinesi dal certo. punto di vista militare nell'area. Ecco, quindi la situazione è certamente complessa, anche perché appunto le amicizie poi devono fare i conti con esigenze strategiche, esigenze economiche. Un'ultima battuta rapidissima, Vittorio Emanuele Parsi: comunque l'evoluzione della Cina è un'evoluzione che comunque è sempre più integrata in un sistema di rapporti aperti anche con gli altri paesi, con l'Occidente, soprattutto con gli Stati Uniti, la Russia dall'altra parte e l'Europa. Sì, non bisogna sbagliarsi, non c'è niente di ideologico nel sostegno cinese alla Corea del Nord, ma c'è tutto di strategico ancora. Il primo, guardare con la lente ideologia sarebbe sbagliata. Dal punto di vista ideologico la Cina è integrata nel sistema economico e finanziario internazionale, sia con qualche riserva. Dal punto di vista però degli interessi strategici, i coreani restano di poter contare sull'alleanza cinese ancora a lungo. 24 mattino. Bentornati a 24 mattina da Gianfranco Fabi e buongiorno a Roberto Saviano. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Saviano, siamo qui, parliamo del suo nuovo libro 000, siamo qui anche con Simone Spezia. Buongiorno Simone. Buongiorno Gianfranco e buongiorno naturalmente agli ascoltatori. Poi vi ricordo che con 9 in punto torneremo a parlare di cocaina, di traffico di cocaina e di dipendenza dalla cocaina con altri ospiti dopo questa intervista appunto con Saviano. Grazie Simone. Allora, Roberto Saviano, un libro dopo 7 anni, un libro che è un'inchiesta, un romanzo, un approfondimento, un viaggio all'interno di un sistema molto complesso, quello della criminalità, quello della cocaina. E possiamo svelare un mistero? Perché 000? Lo spiega nell'ultima riga del libro, dopo 400 pagine. È vero. Possiamo dirlo magari per aiutare la lettura. Perché 000? È proprio vero che sembra quasi una tortura, nel senso che lo svelo soltanto nell'ultima pagina, nell'ultimo rigo dell'ultima pagina. In realtà è semplice. E 000 con 000 si indica la qualità della farina più pura, della farina con cui si fanno soprattutto i dolci, e la farina metafora quindi della coca e della purezza della coca. Quindi ho scelto questo titolo che rimanda direttamente alla farina e che nel gergo va a definire la coca più pura. Ecco, e c'è d'altro punto un altro richiamo: la farina è un elemento normale, un elemento tradizionale, un elemento che conosciamo tutti, e uno dei motivi di fondo di questo libro è che la cocaina è diffusa, e questo si trova magari forse soprattutto nelle prime pagine, è qualcosa che è insieme a noi magari non lo sappiamo, è il nostro vicino, è il nostro compagno di lavoro, è la persona che incontriamo e di cui non sospettiamo nulla, e siamo in un mondo che è dominato dalla cocaina. Non è un po' troppo, Saviano? Ma in realtà i dati sono impressionanti. Nel nella prima pagina del mio libro uso un ritmo narrativo per comunicare la quotidianità, quindi incalzo con una serie di figure che ci sono intorno e per mostrare che non è una droga come per esempio l'eroina che porta via la persona dalla società. E stiamo parlando di un indotto economico di oltre 86 miliardi di euro e stiamo parlando di una droga performativa, quindi che rende tutto più drammatico. Quindi non è che utilizza la droga chi vuole sballarsi o chi vuole andare in discoteca, certo anche chi vuole passare una serata particolare. L'elemento davvero tragico è che usa coca chi vuole lavorare di più, spesso, quindi sui cantieri, gli autisti dei camion, medici, quindi innesca un meccanismo per cui ti senti anche meno in colpa, senti che stai facendo anche qualcosa che aiuta la tua carriera, che aiuta a fare straordinaria, a rendere più leggera una vita difficile. Questo costruisce una spirale che rende la cocaina così incredibilmente pericolosa. Simone Spezia. Sì, in realtà, Saviano, questo è un libro di economia, è un libro su un'industria pazzesca di dimensioni mostruose. È un libro di racconto molto serrato. Io devo dire la verità, sono franco, che poi la sincerità paga. Non ho amato particolarmente Gomorra, invece questo libro mi è piaciuto moltissimo. Mi è piaciuto moltissimo proprio per il ritmo che ha, per il respiro del racconto, per quest'idea di una multinazionale di dimensioni incredibili. Infatti la mia ambizione era proprio questa, costruire una sorta di macroeconomia raccontata con uno stile narrativo della più grande azienda, cioè anche questo a volte è complicato comunicarlo ai media, ma comunicarlo anche alle persone anche più attente, cioè che se domani ci fosse la possibilità di inserire in un elenco di quelli che fanno spesso i giornali anglosassoni, per esempio, delle imprese più floride, perennemente in crescita, stabili, la coca è in testa alle 10 più importanti imprese del mondo. E la coca SPA ha sempre molto meno a che fare con la polvere bianca, che poi spesso la coca non è bianca, anzi spesso quella di maggior qualità va sul giallo, va sul rosa. Ha sempre meno a che fare con la sostanza e ha sempre più a che fare col riciclaggio, quindi banche, alberghi, ristoranti. Ecco, su questo mi sembra un punto importante, perché chiunque abbia, si parlava del consumo, no? Si diceva, la persona accanto a te, chi è accanto a te, è probabilmente tra le persone che hai vicino c'è qualcuno che consuma cocaina. E poi appunto si diceva l'aspetto economico, ci capita di passare nei centri delle città, delle nostre città, in realtà in tutta Europa e probabilmente in tutto il mondo, e vedere ristoranti, bar che improvvisamente cambiano gestione, si rinnovano ogni tre mesi con una rapidità impressionante, cambiando completamente arredamento, magari diventando cose di lusso, di semilusso e così via. E quelli sono tutti soldi di coca. Ed è una giusta osservazione questa, perché ho cercato in qualche modo di dare una chiave anche per il lettore che si trova, come proprio ha detto, in una situazione strana, vedere nella propria città d'improvviso tutto mutare, eppure non cambia il flusso di denaro, non sono cambiati gli investimenti, non è cambiata l'amministrazione politica, nulla è cambiato tranne quel ristorante, tranne quel condominio, quel supermercato. Cosa succede? Succede questo, che la coca permette una incredibile velocità di arricchimento. Non è semplicemente la ricchezza. Le mafie fanno soldi con altre cose, con le estorsioni, con l'usura, la gestione del ciclo rifiuti, che è immensa, la gestione del ciclo cemento. Tutto questo le rende fortissime, ma non così rapide. Ecco perché è così percepibile al nostro occhio. È meno percepibile invece l'altro tipo di investimento. È un dato che io sto cercando così di diffondere il più possibile, perché è stato anche difficile ricavarlo, ma grazie alle analisi che fa la DEA americana sono riuscito a trovarlo. Cioè, 1.000 euro investiti per esempio in un'azione Apple ti portano dopo un anno, quando le cose vanno molto bene, 1.600 euro più o meno. Se investi 1.000 euro in coca ti portano dopo un anno intorno ai 186.000 euro. solo 1000 euro. Questo significa che la velocità di arricchimento è incredibile, ecco perché ce ne si accorge, ecco perché d'improvviso le città, i territori si trasformano senza che ci sia una ricchezza sociale, ma una ricchezza individuale che nasce dal riciclaggio. Ecco, ma mi permetta Saviano, c'è un rischio in più. C'è il rischio di finire sottoterra, come spiega molto bene nel suo libro. C'è un passaggio: i colletti bianchi del narcotraffico hanno smesso i panni del pastore dell'Aspromonte e grazie all'illimitata disponibilità di denaro stanno colonizzando il mercato della droga, ma le regole dell'Aspromonte, le regole di sangue e terra continuano a essere le loro coordinate morali, la loro guida nell'azione. Conoscono ormai anche le regole dell'economia e sanno come muoversi nel mondo, come è indispensabile per garantire un fatturato annuo di miliardi di euro. Quindi Saviano, ci sono queste regole, diciamo, drammatiche della criminalità che governano questo mercato. Ecco, l'altra cosa è proprio questa. Sembra impossibile che un mercato del genere, persone del genere, sembra impossibile all'immaginario, che il narcotraffico invece sia un luogo, io definirei calvinista, pieno di regole che hanno molto poco a che fare con il godersela, con lo sperperare, e molto più a che fare invece con una vita disciplinata, con una vita infernale, drammatica, con un senso di responsabilità assurdo ma presente. Ecco, quando faccio riferimento alle regole dell'Aspromonte, perché è proprio così, quello che ha reso l'Andrangheta così affidabile sono le sue regole. I narcotrafficanti che trattano con l'Andrangheta, in passato i colombiani, attualmente i messicani, beh, sono certi che hanno di fronte una struttura di regole: se qualcuno non paga ci si rivolge a qualcun altro che pagherà, nessuno di loro avrà un comportamento che mette a repentaglio il flusso di arrivo di coca, la gestione nei porti è una gestione d'onore, cioè le regole, il comportamento che deve essere un comportamento anonimo ma stravagante. Nell'Andrangheta ci sono stati dei processi interni dove delle persone sono state allontanate perché vestivano in maniera troppo sgargiante o guidavano con il gomito fuori dal finestrino, cose che ci sembrano ridicole, ma che mostrano un'organizzazione che va a controllare tutto. Ed è affascinante come alcuni boss dei narcos, per esempio messicani, che vengono descritti nel libro, abbiano sostanzialmente adottato queste regole e che ricordavano per certi aspetti come sono stati catturati alcuni dei boss, le condizioni nei quali sono stati catturati alcuni dei boss mafiosi di questo paese. Insomma, sembra che abbiano assorbito un modo di agire. Ma è proprio così, questo rende l'Italia in questo senso privilegiata, ecco, con uno strano privilegio. Cioè gli italiani, il mondo dell'antimafia italiana, la cultura antimafia, quindi non solo il giudiziario, non solo le forze di polizia, ma proprio la cultura di questo paese, è una cultura che riesce a comprendere i meccanismi di mafia degli altri paesi, proprio perché la mafia italiana ha fatto scuola ovunque. Un cartello non potrà mai arrivare a controllare l'economia, a entrare in dialettica con la politica, non sostituirsi a essa, come voleva fare Pablo Escobar, per questo cade, non potrà mai farlo senza un'educazione italiana al potere. Con l'educazione italiana intendo proprio l'organizzazione, la struttura, le gerarchie, le regole e in alcuni casi l'interlocuzione diretta con gli italiani. Proprio in nome di questo, il nostro paese, che ha la migliore giurisprudenza antimafia del mondo, forse insieme all'America, gli Stati Uniti, ecco, il nostro paese è indispensabile per qualunque paese decida di contrastare le organizzazioni sul proprio territorio. Ecco, questo è importante, una responsabilità, perché c'è questo traffico, ci sono queste dimensioni drammatiche del traffico di cocaina, ci sono anche, c'è l'opposizione e molto si fa, nel libro è descritto anche quello che si fa da parte delle strutture pubbliche per contrastare questo traffico. Ancora buongiorno, rieccoci con Roberto Saviano, stiamo parlando del suo ultimo libro, da oggi in libreria, 000, romanzo inchiesta, edito da Feltrinelli. È un romanzo appunto in cui si racconta, ma è più un'inchiesta che un romanzo, più un romanzo che un'inchiesta, lo diranno i lettori, questo enorme traffico di cocaina nel mondo. Diciamo che è un'inchiesta perché è basato su dati reali, su dati concreti, su dati anche dei successi del contrasto a questo traffico di droga, un contrasto che però è ancora purtroppo molto limitato, il 10% mi pare nel libro è scritto. Che cosa si sta facendo, che cosa si può fare di più per frenare, se non per bloccare, questa criminalità emergente legata alla cocaina? Lo chiediamo a Roberto Saviano. Domanda senza risposta, nel senso che io sono anni che mi interrogo su questo. Il traffico è immenso, davvero immenso. I sequestri, benché quotidiani, bloccano, secondo alcune valutazioni, intorno al 10% della produzione di coca. Cosa si può fare? È davvero complicato, perché la forza del narcotraffico si basa innanzitutto su un mercato sempre in crescita, molto difficile da valutare, perché rispetto per esempio all'eroina o anche all'alcol, quando c'è l'abuso si va al CERT, ci si rivolge alle strutture. Con la coca è molto più difficile, perché ci si rivolge quando si ha un abuso gigantesco, ma c'è un immenso mercato che consuma cocaina senza arrivare alla tossicodipendenza o sentirsi tali. In questo senso i cartelli messicani, i cartelli russi, i cartelli italiani hanno come costruito una rete intorno al mondo. Basti pensare che l'immaginario collettivo non si associa l'Africa alla coca. Ebbene, gli stati equatoriali africani, equatoriali occidentali, oggi sono narcostati. La loro vita seriamente dipende non dalle materie prime, ma dall'afflusso di coca nei loro territori, che viene stoccata per poi arrivare in Europa, che resta il mercato più grande dopo quello americano. Forse vale la pena fare una riflessione. È disgustoso immaginare di poter trovare coca e non solo dentro una farmacia. Mi rendo conto che non è così facile arrivare all'espressione, anche semplicemente, come dire, morale, legalizziamo. Ma per quanto mi riguarda, almeno sul piano teorico, l'unico modo per sottrarre questo immenso mercato è che gli stati legalizzino l'uso delle droghe. Sul piano formale è questo, sul piano morale mi rendo conto che il dibattito può essere infinito e ognuno ha delle ragioni profonde. Quindi, appunto, legalizzare potrebbe essere in realtà la soluzione, perché comunque di fatto togli affari al narcotraffico. Sì, è l'unica, la vedo come unica strada, forse quella più definitiva. Qualcuno, i proibizionisti direbbero no, è semplicemente, banalmente, la più semplice, ma non possiamo. Lo capisco il dilemma morale, lo comprendo. Comprendo anche la riflessione che si fa su questo, cioè quando si dice, spesso gli antiproibizionisti dicono, ma perché l'alcol non fa male? Sì, certo, ma puoi prendere una bottiglia di vino e non ti fa male, 10 ti fanno male. La coca, qualunque essa sia, la dose può metterti in una situazione di pericolo. Quindi, come dire, si arriva a pensare alla legalizzazione come unico modo per togliere il mercato clandestino, su cui i rincari, cioè i loro guadagni, sono infiniti e arrivano a compromettere il sistema finanziario, le democrazie e alla fine la politica tutta. Ecco, una strada che però va affiancata da quella che peraltro è costituita anche da questo libro, che è quella dell'educazione, di far capire alle persone che cos'è la realtà della droga, di far capire ai giovani che devono vivere in una società in cui si affermi la loro personalità, in cui non possono essere soggetti appunto a forme di questo tipo, in cui la personalità sia appunto privilegiata. E questa forse la battaglia principale da vincere, cosa che lei, Saviano, mette molto bene in rilievo. Per esempio, proprio nel suo sito c'è una frase in cui si dice: spesso mi si chiede come possono le parole mettere paura alle organizzazioni criminali. In verità ciò che spaventa non sono le parole, ma chi le legge, chi le ascolta. A fare paura sono i lettori, che hanno voglia di capire i meccanismi. Quindi l'educazione, secondo me, è fondamentale. D'accordo? D'accordissimo. Io questo cerco di raccontarlo anche quando sono all'estero, che mi fanno domande a volte ingenue, cioè ma cosa mette paura del suo lavoro alle mafie per costringerla a vivere in questo modo? E io rispondo: nulla, non delle mie parole, ma è proprio così. Le mie parole sono analisi, racconti, sono presi dati giudiziari, intercettazioni, analisi, insomma. Quello che mette paura sono la diffusione delle parole, il fatto che siano lette, ascoltate, diventino di altri, siano moltiplicate. E conoscere i meccanismi rende difficilissima la vita alle organizzazioni, rende difficilissima la vita agli imprenditori che si rivolgono a questo denaro, a questo mercato. Per esempio, il sistema finanziario americano negli ultimi anni è stato profondamente infettato. Uno studio dell'Università di Bogotà molto serio racconta che oltre il 94% del denaro, del narcotraffico è stato riciclato nelle banche americane ed europee, praticamente la totalità del denaro. Non hanno più utilizzato i canali come negli anni 80 delle banche sudamericane o piccole banche di periferia, al contrario hanno usato il sistema finanziario americano e europeo. Bene, già conoscere questo permette alla singola persona di avere chiaro certe cose, di capire come funzionano certi meccanismi, e quindi in questo senso conoscere davvero mette paura ai poteri, più di un processo che magari ci mette anni, che magari arriva a una condanna e che magari questa condanna è conosciuta soltanto a pochi. Loro questo vogliono. Nel libro, e verrei, forse siamo quasi in chiusura se non sbaglio, allora forse c'è un'ultima domanda. Allora, il libro si apre con una dedica agli uomini della scorta, in mezzo, nella parte nella quale racconta della violenza dei narcos, c'è una pagina in mezzo nella quale si chiede il perché raccontare questa violenza, e poi c'è anche la chiusura. Brutalizzo, c'è un sottofondo di chi me l'ha fatto fare, di un chiedersi chi me l'ha fatto fare, insomma, cioè vivere da anni sotto scorta, vivere ancora in questa condizione, probabilmente doverci vivere ancora per anni. È proprio così, c'è un sottotesto che va in questa direzione, non mi va di nasconderlo, magari farei figura migliore nel dire rifarei tutto, non ho coraggio, non mi mette paura nulla. Purtroppo non è così, nel senso che una parte di me sempre più forte e che interrogo nel libro è convinta che non valga la pena. Non valga la pena perché non vale la pena mai rinunciare a una parte così importante della propria vita. Secondo me non ci sono ideali per cui può valere la pena una compromissione così gigantesca. Detto questo, però, sono pronto a dire che ovviamente difendo tutto quello che ho fatto, con le unghie, con i denti, con ogni parte del mio corpo, ma non lo rifarebbe? Lo rifarebbe? Io rispondo di no, perché c'è un modo per contrastare le organizzazioni, per fare analisi. Nella mia testa c'era un modo per poterlo fare senza una così incredibile compromissione, insomma, della mia vita quotidiana, degli affetti, insomma, tutto questo disastro che è diventato la mia vita. E forse c'era un altro modo, quindi senza essere codardi, senza scappare, ma c'era un altro modo. Detto ciò, comunque ormai ci sono, e quindi mantengo il punto, e il libro un po' dice questo, in qualche modo, cioè nel libro cerco, non so se ci sono riuscito, di dire questo, cioè di interrogarmi, di non dire la cosa più semplice, cioè tutto giusto, lo rifarei, è stata una cosa coraggiosa e quindi va difesa. Mi interrogo e mi chiedo... Non ce la fa più con questa vita. Allora non gli chiediamo adesso quale sarà il prossimo libro. lasciamo comunque che questo libro, che resta una testimonianza di dovere civile, anche perché Saviano sicuramente ha un talento che ha messo a disposizione della società in questo libro inchiesta, in questo libro che appunto è anche un pugno sullo stomaco in molte pagine, perché ha dei toni drammatici, dei toni sicuramente da letteratura, che però ecco, che fanno quasi pensare alla fiction, perché si parla di romanzo, ma che poi si ritorna in ogni momento a dire sono queste le cose vere. Un'ultima battuta, Saviano, comunque non perda la speranza. Grazie molto, e credo che sia molto vero, non bisogna perdere la speranza, ma per non perderla bisogna continuamente alimentarla, e conoscere e sentire queste storie come proprie è un modo per alimentarla, secondo me. Grazie mille, ricordo. Grazie il libro voi. Di Roberto Saviano, 000, edito da Feltrinelli, non sbagliamoci in questo. Grazie per essere stati con noi, grazie a Carmelo Lauricella in regia, Miriam Lucchetti, Alessandro Longone, Laura Fagin in redazione. L'appuntamento ancora con me, lasciamo Milan in vacanza ancora per una settimana e per lunedì, e buona giornata a tutti, ma tra poco ancora con Simone Spezia, 9 in punto sulla droga e Roberto Saviano. 24 mattino.